Il punto di Stefano Folli. Per Berlusconi escludere Cosentino dalle candidature del PDL equivale a una rivoluzione culturale, contraddice anni in cui il PDL è stato fondato su un garantismo un po' particolare, che in alcune zone d'Italia come la Campania o la Sicilia ha attirato personaggi di dubbia reputazione. Ora si opera una cesura rispetto a questa tradizione, sacrificando il nome simbolo di un'attitudine non più sopportata da quegli elettori che Berlusconi sta cercando di inseguire e di recuperare. Se è vero che è proprio lui il capo, schierandosi a sostegno della linea dura di Alfano, ha detto «non possiamo farci dare dei camorristi dall'opinione pubblica», significa qualcosa. Berlusconi è molto più debole rispetto all'altra campagna elettorale e non può stendere la sua coperta fino a comprendere tutti. Ora deve fare una scelta che per lui è dolorosa, deve amputare un segmento del vecchio partito per salvare il resto, il nord soprattutto, e Cosentino paga per tutti.